Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Movimento 5 Stelle da sempre è chiamato ad essere la bussola dei cittadini, per difenderli dalle minacce, proteggerli dagli usurpatori e indicargli la strada per una migliore qualità della vita. Ed è giunto il momento per questa splendida creatura chiamata Movimento 5 Stelle di rifondarsi. Oggi si chiude un'era ed è proprio per l'importanza di questo momento, per l'importanza che ha questo discorso, che ho deciso di leggerlo. E vi confesso che ho iniziato a scriverlo un mese fa. Oggi dunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito, si chiude un'era, rifondiamoci, dice Luigi Di Maio, in realtà era nell'aria da tempo, da qualche tempo, e oggi lo ha ufficializzato le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle, sapete, malessere appunto del Movimento per varie ragioni, ma anche nei confronti proprio del capo politico, forse con troppi ruoli, forse per le sconfitte elettorali, la perdita di consenso negli ultimi tempi, qualcuno dice colpa sua, qualcun altro invece non bisogna imputare a lui tutte le colpe, comunque ha preso questa decisione, ora bisogna capire che ne sarà del Movimento 5 Stelle e anche che ne sarà del governo, visto che il Movimento 5 Stelle è nel governo alleato con il Partito Democratico, oltre che con Italia Viva e Liberi e Uguali. Quindi grande approfondimento questa sera anche con le vostre riflessioni su questi temi di politica italiana per i vostri messaggi, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, lì potete scrivere i vostri commenti oppure li potete inviare tramite SMS o WhatsApp al 349 238 6666. E poi parliamo di molte altre cose, naturalmente i timori per quanto riguarda il virus che viene dalla Cina, oggi riunioni straordinarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Unione Europea, Task Force italiana, anche il Ministero della Salute italiano in allerta. E poi parleremo anche di un intervento eccezionale che è avvenuto in Italia e per la prima volta al mondo. Quindi allacciate le cinture che si parte. Di Maio si è dimesso da capo politico dei 5 Stelle, si chiude un'era, dice rifondiamoci, ma il governo va avanti. Punta il dito contro i nemici interni, pugnalatori alle spalle, e lascia il posto a Crimi per la transizione. Polemiche sul video di Salvini che citofona a Bologna, l'ambasciatore tunisino parla di deplorevole provocazione. I timori per il virus cinese, salgono a 17 i morti, allertati in Italia i medici di famiglia, pronta l'unità di crisi, riunioni straordinarie di OMS e autorità europee. Liliana Segre interrompe gli incontri nelle scuole, è provata dopo 30 anni, spiega il figlio, ma la sua testimonianza prosegue. Intervento eccezionale al CNAO di Pavia, aritmia grave trattata con un fascio di protoni, è la prima volta al mondo. Calcio per la Coppa Italia maschile in campo Juventus-Roma. Partiamo quindi dalla notizia politica del giorno, appunto le dimissioni del capo politico del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Le mie funzioni passano a Crimi, ha detto Di Maio, resta la scelta che apre a tanti interrogativi anche sulla tenuta della maggioranza. Ed è giunto il momento per questa splendida creatura chiamata Movimento 5 Stelle di rifondarsi. Oggi si chiude un'era. Luigi Di Maio prende la parola alla presentazione dei facilitatori del Movimento e fa un passo indietro, lascia la guida dei 5 Stelle. Da oggi, dice, si apre il percorso per gli stati generali del Movimento e rivendica il lavoro fatto alla guida dei pentastellati. In questi anni da capo politico ho fatto crescere questo Movimento al meglio delle nostre possibilità. E ho sempre dato tutto me stesso per proteggerlo dagli approfittatori e dalle trappole lungo il percorso. I peggiori nemici sono all'interno del Movimento, sono quelli, accusa Di Maio, che lavorano non per il gruppo ma per la loro visibilità. Ma ora il governo deve andare avanti. Noi dobbiamo pretendere il sacrosanto diritto di essere valutati almeno alla fine dei 5 anni di legislatura previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Ed è anche per questo che io credo che il governo debba andare avanti, perché alla fine i risultati si vedranno. Ma... Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo prosegue, ed è alle ultime battute, la campagna elettorale per il voto delle regionali. Domenica appunto si voterà in Emilia-Romagna e in Calabria. Polemiche nel frattempo per la citofonata di Salvini a una famiglia tunisina a Bologna per chiedere se lì c'erano degli spacciatori. Interviene anche l'ambasciata tunisina, si scatenano i social. È la sera di martedì nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Matteo Salvini in campagna elettorale, circondato da operatori TV e guidato da una signora del quartiere, citofona una famiglia tunisina pronunciandone il nome. «Ci hanno detto che siete spacciatori di droga, è vero?» chiede Salvini. L'ambasciatore tunisino a Roma ha scritto alla presidente del Senato Casellati definendolo un increscioso episodio, una deplorevole provocazione fatta in maniera illecita, senza rispetto per il domicilio privato di una famiglia tunisina. Un atteggiamento razzista e vergognoso, aggiunge il vicepresidente del Parlamento tunisino. Ma Salvini ribatte, la lotta agli spacciatori dovrebbe unire, non dividere, tolleranza zero contro droga e spacciatori, che siano stranieri o italiani. Accusare senza prove una famiglia, attacca Nicola Morra, presidente 5 Stelle della Commissione Antimafia, ricorda lo squadrismo fascista. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora in tendenza su Twitter per l'hashtag Salvini citofona, soprattutto con messaggi molto critici che gridano alla violazione della privacy della famiglia contattata dal leader leghista. Moltissimi anche i commenti ironici, che chiamano in causa i venditori porta a porta o ricordano una vecchia pubblicità del gelato o ancora le gag di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il sindacato della Filcams la butta in ridere e invita ad aprire solo alla visita fiscale. In tanti ironizzano sul fatto che allora bisognerebbe andare a citofonare a casa di Salvini per chiedergli «Scusi, è vero che lei ha rubato 49 milioni?» Tanti poi ricordano la foto che ha fatto scandalo mesi fa, in cui Salvini era insieme al capo ultra del Milan, condannato per spaccio. Altre persone, come ha fatto Fabio Volo, invitano Salvini ad andare a citofonare in Sicilia o in Calabria, a casa di mafiosi o ndranghetisti. In uno stato di diritto non dovrebbe essere la portinaia del condominio a dare l'etichetta di spacciatore, scrive invece Fedez su Instagram. E a Volo e Fedez risponde proprio Salvini in diretta Facebook. Mentre Fabietto Volo scriveva e Fedez cantava, io confiscavo i beni ai mafiosi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulle dimissioni di Di Maio, il futuro del Movimento 5 Stelle, del governo e le polemiche su Salvini, che citofona, torneremo tra poco. Intanto la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio, Liliana Segre, fa sapere che concluderà ad aprile i suoi incontri nelle scuole, ma questo non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza. A spiegarlo il figlio della senatrice 89enne, Luciano Belli Paci, ha detto che la senatrice, dopo 30 anni di continui appuntamenti, è provata, ma ha in programma un ultimo grande incontro tra qualche mese in provincia di Arezzo. E passiamo ai timori per il virus cinese. Salgono a 17 le vittime del nuovo coronavirus. I morti si registrano nella provincia di Hubei, dove si trova la città focolaio di Wuhan, il cui sindaco invita i viaggiatori a non recarsi sul posto. Tra l'altro, notizia di poco fa, il trasporto pubblico di Wuhan si ferma temporaneamente per contrastare la diffusione dell'epidemia. Tutti i voli e i treni in partenza dalla città cinese, focolaio appunto del virus, sono stati cancellati, lo rende noto la BBC. Per quanto riguarda l'Italia, allertati i medici di famiglia, specie quelli di Milano e Roma, dove si trovano gli aeroporti internazionali. Pronta l'unità di crisi della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, riunione della task force operativa del Ministero della Salute, esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in missione proprio a Wuhan, intanto riunione d'emergenza delle autorità europee. Interverrà allora su questo, qui effetto notte, il responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono state sequestrate in Veneto quasi 10 tonnellate di carne per il sospetto che avesse contratto la peste suina. È stato subito distrutto il carico di carne suina di origine cinese sospettata di contaminazione con la peste suina africana, che era riuscito ad arrivare in Veneto violando le norme doganali e sanitarie. Il carico si trovava sul fondo di un tir. Il camion era passato da Rotterdam prima di arrivare in Italia, a Padova. La Guardia di Finanza, in collaborazione con il Servizio Veterinario e il Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione, l'ha scovato e sequestrato e quindi subito incenerito. Così sono finiti sotto i sigilli quasi 10 tonnellate per pericolo di contaminazione della peste suina africana, malattia che colpisce suini e cinghiali e non è trasmissibile agli esseri umani. Inoltre è stata sequestrata anche l'attività commerciale per gravi e reiterate irregolarità. Serve dare immediatamente il via libera all'obbligo dell'etichettatura sull'origine dei derivati della carne suina, ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'estero, al World Economic Forum di Davos, il forum economico mondiale, dove domani sarà presente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche oggi non sono mancati i gridi d'allarme sul cambiamento climatico. Il principe Carlo d'Inghilterra ha detto che il mondo rischia una catastrofe, ma soprattutto è stato il giorno del botta e risposta tra Stati Uniti e Unione Europea sulla web tax. La web tax è pomo della discordia nel confronto USA-UE. Parliamo della tassazione che riguarda i colossi di internet e che quindi tocca le multinazionali americane. Stamane il segretario al tesoro statunitense Steven Mnuchin ha detto: una digital tax è discriminatoria per sua natura e la tassazione internazionale è complicata. Ma se si vuole imporre una tassa sulle nostre società, considereremo tasse sulle case automobilistiche. Parole dure confermate dal presidente Trump. L'Europa è stata molto difficile da affrontare, ha detto all'indomani dell'incontro con la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, e se non otteniamo qualcosa dovremo agire e l'azione sarà tariffe molto elevate su auto e altri beni che vengono importati nel nostro paese. Ma sulla web tax il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha replicato: abbiamo lavorato molto duro, ora abbiamo tutti i dettagli per un accordo e molti stati europei pronti a introdurre una tassazione nazionale. È un chiaro incentivo a trovare un compromesso. Per inciso, il principio della tassazione del web è già nella legge di bilancio in Italia e lo stesso alleato britannico mette in guardia: vogliamo una soluzione globale, ma in assenza Londra adotterà da aprile a titolo temporaneo la sua tassa sui servizi digitali. La presidente von der Leyen ha detto che l'UE punta a raggiungere un accordo commerciale con gli USA tra qualche settimana. Staremo a vedere. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo della Grecia, che ha eletto la prima donna presidente. A 63 anni, Ekaterinis Sakellaropoulou, presidente del Consiglio di Stato, magistrato esperta in diritto ambientale, è stata eletta con 261 voti su 300, è la prima donna presidente della Grecia. Progressista moderata, il suo nome è stato proposto dal premier conservatore Mitsotakis, che non si è allontanato da quella che è una via sempre battuta dai governi greci: proporre personalità vicine all'opposizione per dare un'immagine di consenso istituzionale. La carica di presidente è per lo più legata al cerimoniale, ma la giudice Sakellaropoulou è nota, ha sottolineato Mitsotakis, per il suo solido giudizio e il suo interesse nella protezione dei diritti individuali. E in un momento delicato per la Grecia come questo, c'è da scommettere che farà sentire la sua voce dentro e fuori i confini nazionali. Atene sta cercando di conquistare posizioni nella crisi libica perché Ankara ha creato un ponte con la Libia, ignorando quasi la presenza geografica della Grecia. La Turchia poi gioca anche sul tavolo dei migranti, aprendo e chiudendo le maglie dei propri confini a seconda dell'interesse politico. A Lesbo ci sono quasi 20.000 persone contro i 3.000 posti del campo di Moria. Oggi, con Lesbo, protestano Samos e Chios, chiusura di tutti i servizi per chiedere il ritorno alla normalità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex produttore potentissimo di Hollywood Harvey Weinstein è arrivato oggi in tribunale a Manhattan per la prima udienza del processo che lo vede imputato per stupri e aggressioni sessuali nei confronti di due donne. Oggi procura e difesa presenteranno le loro argomentazioni iniziali sul caso. Weinstein, che deve rispondere di 5 capi di imputazione, è arrivato zoppicando, sorretto da un assistente, mentre un altro assistente reggeva il deambulatore usato recentemente in pubblico dall'ex potente produttore di Hollywood. Di nuovo in Italia si parla di mose di Venezia. I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno comunicato al tavolo riunitosi in Prefettura Venezia che il cronoprogramma del MOSE, delle paratie mobili, prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie a partire dal prossimo 30 giugno in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri, anche se la quota precisa verrà stabilita nelle prossime riunioni. E qui bisognerebbe dire quasi attenzione, piovono iguane. Perché? Perché l'America orientale è nella morsa di un'ondata di gelo che non colpisce solo le zone più a nord, ma si estende anche in alcuni stati del sud, dalla Louisiana al nord e sud Carolina, passando per Georgia e Florida. A causa dell'anomalo fronte freddo, il National Weather Service di Miami ha emesso un'allerta per la caduta delle iguane dagli alberi nella notte. Le minime della notte sono scese a pochi gradi sopra lo zero. Le iguane, essendo animali a sangue freddo, vanno in letargo e si irrigidiscono con temperature del genere. Possono quindi cadere dagli alberi pur se non sono morte. In generale, più grande l'iguana, più in grado di tollerare temperature basse per periodi più lunghi. Peraltro, questi animali possono raggiungere dimensioni considerevoli, anche sino a 10 kg di peso e 1,5 metri di lunghezza. Quindi la preoccupazione è che se cadono su auto, piscine o strade siano pericolosi per i passanti. Invece pioveranno palloni probabilmente all'Allianz Stadium, dove è in diretta da Torino il nostro Dario Ricci. Caro Dario! Sì, buonasera. Beh, non è, sarà pericoloso come un'iguana, ma velenoso come un cobra. Parlo di CR7, di Cristiano Ronaldo. Siamo infatti al 30° di gioco qui all'Allianz Stadium. Juventus in vantaggio sulla Roma per 1-0. Decide chi altri se non lui. Proprio Ronaldo, che al 26esimo ha approfittato prima di una palla persa dai giallorossi a centrocampo, poi della mancata chiusura di Florenzi e Mancini per battere con un preciso diagonale Pau Lopez sul secondo palo. Juventus, che fino a quel momento aveva iniziato bene la gara, aveva preso il pallino del gioco, poi nel momento in cui la Roma stava tornando su e anzi al 20esimo aveva anche sfiorato il vantaggio con una deviazione di poco alta di Kluivert, ecco, è arrivato l'assolo di Ronaldo. 31esimo di gioco qui a Torino, quindi in questo secondo quarto di finale arriva la prima ammonizione del match per Cristante per un fallo su Bentancur. Juventus 1 Roma 0. Grazie Dario Ricci, buon divertimento, ci aggiorniamo poi da Torino, mentre prima di lasciare la linea alla viabilità per poi cominciare insieme agli ospiti ad affrontare alcuni argomenti in primo piano, alcuni vostri messaggi. Per esempio dice Francesco: ho avuto un po' lo stesso smarrimento davanti alle dimissioni di Maio di quando si dimise Ratzinger. Ci saranno motivi ufficiali e motivi ufficiosi che ti hanno spinto a decidere, o tanta amarezza, dice, ma tanto senso di gratitudine infinito per il tuo impegno, dice Francesco direttamente rivolgendosi a Di Maio. Un altro ascoltatore dice: una grande sconfitta, ha vinto il sistema contro Luigi, mentre Piero dice: si sono avvicinati alla politica con supponenza, per non dire altro, credendo di avere soluzioni per tutto. Per i vostri commenti 349 238 6666 che è il numero per SMS e WhatsApp, poi pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata all'inizio che non potete perdere e poi gli approfondimenti con gli ospiti che cominceranno tra pochissimo con la prima ospite, Roberta Giordano, sempre con voi naturalmente in questa sfida quotidiana nel cercare di raccontarvi le notizie più importanti dell'Italia e dall'estero e poi approfondirne alcune, fare chiarezza e cercare appunto di dare dettagli in più, per esempio su quello che è successo oggi a proposito delle dimissioni di Di Maio. Mentre continuano i vostri messaggi su questo argomento tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349 238 6666, un altro è per esempio dice per quanto riguarda appunto Di Maio, è vero, dice, ha ragione che i peggiori nemici sono all'interno, era così anche per Renzi, però doveva farlo prima che dal 33% arrivasse al 10%. Varie vostre constatazioni, vi ricordo molto velocemente quali sono le notizie principali della giornata. Per l'appunto le dimissioni di Di Maio, che dice è finita un'epoca ma il governo va avanti, e poi le polemiche sul video di Salvini che citofona a Bologna per sentire se in quella casa dove abitano le persone di origine tunisina ci sono degli spacciatori. L'ambasciatore tunisino parla di deplorevole provocazione. I timori per il virus cinese, salgono a 17 morti, allertati in Italia i medici di famiglia, pronta l'unità di crisi, riunioni straordinarie di OMS e autorità europee. Vedo adesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimandato a domani il decretare o meno l'emergenza sanitaria. Poi Liliana Segre che interrompe gli incontri nelle scuole, ha 89 anni, il figlio dice dopo 30 anni di questa attività è piuttosto provata, ma insomma comunque la sua testimonianza prosegue. L'intervento eccezionale al CNAO di Pavia, di cui parleremo, e poi per il calcio avete appena sentito l'aggiornamento Juventus-Roma della Coppa Italia maschile direttamente da Torino. Il Movimento 5 Stelle da sempre è chiamato ad essere la bussola dei cittadini, per difenderli dalle minacce, proteggerli dagli usurpatori e indicargli la strada per una migliore qualità della vita. Ed è giunto il momento per questa splendida creatura chiamata Movimento 5 Stelle di rifondarsi. Oggi si chiude un'era ed è proprio per l'importanza di questo momento, per l'importanza che ha questo discorso, che ho deciso di leggerlo. E vi confesso che ho iniziato a scriverlo un mese fa. Un mese fa, perché effettivamente, come dicevo all'inizio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se ne parlava da un po' di un malessere interno al Movimento 5 Stelle, di un certo scontento, tra l'altro con i due che se ne sono andati ieri. Sono 31 a questo punto i parlamentari che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle, per vari motivi naturalmente, però appunto malessere e scontento si sentivano diciamo piuttosto consistenti negli ultimi tempi, e riguardavano anche la leadership di Di Maio, che forse nel tempo ha accentrato su di sé un po' troppi ruoli, per esempio nel governo precedente, quello con la Lega giallo-verde, era vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento, nonché ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo Economico. In quest'altro governo, col PD, il governo giallo-rosso, è capo politico del partito e anche ministro degli esteri. Saluto la nostra Lina Palmerini, firma scintillante del Sole 24 Ore. Cara Lina. Grazie, ciao Roberta, buonasera. Ciao Lina, bentornata. Allora, da tempo effettivamente si chiedeva più collegialità nel Movimento 5 Stelle, probabilmente poi molti hanno imputato a Di Maio sconfitte elettorali, una perdita progressiva di consenso, qualcuno non ha digerito l'alleanza di governo col PD. Però sentiamo Lina qualche passaggio di questo lungo discorso, 35 minuti almeno calcolato io, forse anche qualcosa di più. Sentiamo quest'altro passaggio di Di Maio che dice: io ho fatto crescere il movimento al massimo delle mie possibilità. In questi anni da capo politico ho fatto crescere questo movimento al meglio delle nostre possibilità. E ho sempre dato tutto me stesso per proteggerlo dagli approfittatori e dalle trappole lungo il percorso, assumendo scelte dure e a volte incomprensibili. E poi ha puntato il dito contro traditori, trappole, pugnalatori alla schiena. Dice: sono più pericolosi rispetto alle ostilità degli altri partiti, i nemici interni. Abbiamo tanti nemici, certo. Quando si prova a cambiare lo status quo, quando si vogliono davvero cambiare le cose e trasformare l'atteggiamento delle istituzioni, c'è sempre qualcuno che resiste e ti fa la guerra. Ma nessuna forza politica è mai stata sconfitta da un nemico esterno, bensì sempre dal suo interno. I peggiori nemici sono quelli che uno non immagina mai di avere e che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme. Oh Lina, prima di passare agli altri pezzi di questo discorso, effettivamente è così, dici che ha avuto soprattutto nemici interni, qualcuno dice come Renzi, qualche ascoltatore fa il paragone no, con Renzi nel PD prima di lasciarlo. Beh, non solo Renzi, se vuoi possiamo fare anche altri paragoni con altri segretari del PD prima di Renzi, certo. In ogni caso insomma le divisioni del Movimento 5 Stelle sono sotto gli occhi di tutti, quindi insomma che lui accusi i suoi compagni di partito, ma insomma ci sta in un discorso di addio. Però è anche vero che un capo politico, che è un segretario di un partito, si deve assumere diciamo la responsabilità non solo delle vittorie ma poi anche delle sconfitte e il ruolo che lo richiede, quindi non ci si possono attribuire le vittorie e poi scaricare le sconfitte sugli altri. Si è responsabili in tutte le circostanze positive e negative. Poi Di Maio... Quindi è un gesto di responsabilità, se vuoi. La cosa che magari colpisce è il tempismo, cioè perché abbia deciso di farlo a pochi giorni dalle elezioni regionali. Giorni tu hai la risposta, Lina? Beh, insomma, la risposta naturalmente è quella più maliziosa, più maligna, cioè evita di prendersi anche quest'ulteriore sconfitta e adesso senza violare le regole della par condicio e del silenzio sui sondaggi, ma insomma evidentemente le previsioni non sono rose. Favorevoli. Paolo da Genova scrive: penso che il passo indietro di Di Maio sia una rara dimostrazione da parte di un politico di onestà e realismo. Però ti farei sentire anche un po' quando fa l'elenco delle varie battaglie del Movimento 5 Stelle, dice: tutti ci hanno remato contro. In questi anni abbiamo abbracciato tante battaglie contro, tutte giuste. No-TAV, no-TAP, no-ILVA, contro i privilegi della politica, contro i vitalizi, le pensioni d'oro, contro gli aiuti alle banche, contro alcune lobby. Governando ci siamo resi conto che alcune battaglie, anche se faticose, erano realizzabili e le abbiamo portate a casa con le unghie e con i denti. E questo non era scontato, perché ogni volta che provi a stravolgere uno solo di quei privilegi acquisiti, provano a metterti all'angolo, ti fanno pressioni, riescono persino a entrare nella tua vita privata e a metterti in difficoltà. E poi parla del Movimento 5 Stelle come un progetto visionario unico al mondo. Il Movimento 5 Stelle è un progetto visionario che non era mai stato realizzato prima e che non ha eguali nel mondo. Centinaia di perfetti sconosciuti con nessuna esperienza parlamentare riescono ad entrare nelle istituzioni e poi a formare ben due governi, indicando un ottimo Presidente del Consiglio e due bravissime squadre di ministri e sottosegretari, ottenendo cose che l'Italia aspettava da 30 anni. Oh Lina, al di là poi dei risultati, effettivamente diciamo si può riconoscere che il progetto era visionario, in parte magari lo è ancora, no? Sicuramente una cosa nuova e quindi anche con le sue fragilità? Sì, no, sicuramente loro sono riusciti a interpretare un malessere che c'era nel paese e sono riusciti anche ad occupare uno spazio che era rimasto vuoto per alcune, diciamo, distrazioni profonde della sinistra, quindi hanno occupato uno spazio importante, hanno colto un umore e delle istanze, diciamo, degli italiani, e quindi le hanno interpretate. Il problema poi è stato interpretarle stando al governo, e questo anche un po' oggi l'ha ammesso nel suo discorso Di Maio, non solo nel passaggio che hai fatto appena ascoltare, ma anche in altri passaggi, cioè ha ammesso che poi governare è un'altra cosa, è una cosa complicata, difficile, che alcune battaglie si possono realizzare, altre è più complicato portarle avanti. Addirittura ha detto la prossima volta dovremo dire non soltanto quali sono i nostri punti programmatici, ma anche quanto tempo ci vuole per realizzarli, insomma, come a dare l'idea che certo, forse prima erano stati troppo avventati o troppo ottimisti forse nel fare promesse, nel pensare di concretizzarle. Sì, forse questo è il tratto del populismo, semplificare troppo, dare l'idea, creare delle aspettative che invece poi è più complicato da realizzare. Quindi già in questo c'è una prima trasformazione del movimento e anche del linguaggio, no? Dice Nino, la vicenda Di Maio concretizza semplicemente la fine dell'idea che chiunque potesse gestire la cosa pubblica, bisogna studiare, fare gavette, e 5 Stelle fanno ora la fine che era scritta nell'incipit della loro fondazione, secondo Nino. Maria invece dice comunque l'abbraccio mortale del PD ha distrutto un progetto importante, però l'abbraccio, se fosse davvero mortale, è abbastanza recente, no, Lina, nel periodo. Guarda, io non so se sia stato mortale quello con o se sia mortale quello col PD o ancora prima quello della Lega. Insomma, il declino nei consensi in realtà parte già da un anno fa, dalle prime elezioni regionali, quindi alcuni invece puntavano l'indice su Salvini come il vero carnefice del Movimento 5 Stelle, non soltanto perché anche durante il governo Salvini spesso ha puntato il dito contro 5 Stelle, contro i no ripetuti dei 5 Stelle a tanti progetti, fino poi a staccare la spina del governo, quindi non so quale, onestamente, quale dei due sia più mortale. Più mortale. Allora, questa ascoltatrice scrive: il Movimento 5 Stelle paga per il sensazionalismo con il quale si è presentato, con il quale ha costruito il consenso, ma poi si è dovuto confrontare con la pratica quotidiana, governare tutt'altra cosa, come è stato ripetuto più volte. Ma sentiamo Di Maio che dice: ho terminato a questo punto il mio compito. È arrivato il momento di dirci che per stare al governo e dare risposte concrete alle persone serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata e strutturata. Ho lavorato per un anno a questo progetto, dalle elezioni in Abruzzo del 2019, che ci hanno scosso non poco per il risultato, e adesso posso dire di aver portato a termine il mio compito. E a questo punto Lina poi ha presentato, appunto, questa era l'occasione di presentare i facilitatori, no? Ci sarà una squadra di facilitatori che saranno più sul territorio, visto che questa era una delle debolezze del Movimento 5 Stelle. Per esempio, infatti, a questo proposito, questo ascoltatore Emanuele dice: ma la notizia vera qual è oggi? Le dimissioni di Di Maio o la rifondazione del Movimento? Nel caso sia la rifondazione, in cosa consiste? Tu l'hai capito bene, Lina? Beh, io credo diventare una forza di governo più responsabile, più competente, insomma, come dicevo prima, c'è un po' una svolta nel senso di una maggiore serietà, diciamo così, ecco. Questo è già un inizio, dopodiché anche l'esigenza di collegialità va benissimo, però poi alla fine dovranno esprimere un leader, per esempio, e quindi si vedrà chi è l'interprete di questa nuova fase, di questa rifondazione. E mi chiedo anche se questo poi sia sufficiente a evitare la vera domanda che oggi c'è sui 5 Stelle, cioè se è una parabola, diciamo, che porterà un po' al declino del movimento, oppure se riusciranno davvero a ritrovare uno slancio stando al governo. L'importante però è trovare uno stile di governo, perché quello che è successo fino adesso è che non si può governare un po' con un atteggiamento quasi da sindacalisti, quindi con divisioni, ripicche, rinvii costanti. Quello che abbiamo raccontato in questo anno e quasi anno e mezzo di governo, sia della Lega che con il PD, insomma, sono stati anche i costanti rinvii su tante scelte, quindi forse È lì che deve partire la rifondazione, diciamo. Se la scelta è quella di restare al governo, il punto è cambiare stile di governo e quindi non solo diciamo elencare i punti programmatici, ma anche poi realizzarli con minori divisioni e creando un'alleanza poi. Che poi bisognerà vedere da che parte sta. Su questo arriveremo tra pochissimo. Comunque lui poi ha annunciato gli stati generali prossimamente e intanto diciamo lo scettro passa a Vito Crimi, che era stato uno dei primissimi, no, reggenti del Movimento 5 Stelle proprio all'inizio, e poi ci sarà, dice, questa transizione e verrà insomma nominato il successore, la successora, chissà mai che non possa essere anche una donna, ci credo poco. Comunque, a proposito delle reazioni, Lina, Zingaretti ha detto che è molto dispiaciuto, soprattutto poi in una fase dove il governo insomma va avanti. Comunque sentiamo questo passaggio di Zingaretti. Il voto influisce, perché si elegge il presidente di regione, sulla vita di chi vive in quelle regioni, e questa è la cosa più importante e che io credo inciderà di più sul voto, perché a seconda di come in una regione è governata la formazione, la scuola, le infrastrutture, le politiche dello sviluppo, cambia la vita delle persone. Per questo io credo che le candidature in campo sono molto più forti e credibili, perché sono utili a chi vive in quei territori. Quindi il governo va avanti qualunque sia il risultato. Sì. Vabbè, insomma, qui parlava più delle regionali, però ha detto in un passaggio precedente che era dispiaciuto per questa cosa, proprio perché insomma il governo stava decollando. Bersani, a proposito di dove vogliono guardare, diceva non sono né di destra né di sinistra, così diceva Di Maio, ha commentato Bersani, ma il mondo va in un'altra direzione, bisogna stare o di lì o di qua. Il problema del Movimento 5 Stelle è che non hanno modo di decidere, da questo devono uscire. Lina, ti sembra anche questo un punto debole, che sembrava quello di essere post-ideologici, invece un punto di forza del movimento? No, in realtà è anche questo come dire, l'equivoco da chiarire, che non si può passare dalla Lega al PD così senza colpo ferire. A un certo punto serve fare una scelta di campo, anche perché i due campi sono molto diversi. Dunque anche questa è l'ambiguità del Movimento 5 Stelle, è quello che dovranno chiarire negli stati generali. Non è possibile continuare a oscillare da una parte all'altra, però mi rendo conto che è il punto più difficile, perché il Movimento esprime comunque dei pensieri politici che sono molto diversi, che hanno anche diciamo provocato le ultime uscite, 31 ne abbiamo contate, sì. Quindi anche quello è un po' l'ambiguità dalla quale devono uscire. Per quanto riguarda Zingaretti invece mi sembrava molto interessante quello che diceva, perché c'è la differenza di questa campagna elettorale tra il PD e la Lega. Il PD tenta di regionalizzare, diciamo, questa campagna elettorale, mentre la Lega, Salvini, l'ha nazionalizzata, quindi è diventata un'elezione regionale per buttare giù il governo di Roma. E vedremo chi avrà ragione dei due domenica. Il 26. Senti, invece passando, allora intanto Salvini, Meloni, Berlusconi dicono ormai con questo addio Di Maio il governo è squassato, sicuramente cederà, andrà a casa, eccetera, eccetera. Però c'è un'altra vicenda invece che, come sai, riguarda Salvini, questo video in cui lui a Bologna, durante la sua campagna per l'appunto elettorale per l'Emilia Romagna, citofona, portato da una donna alla quale sembra che sia morto un figlio per droga, citofona a una casa dove dovrebbe esserci una famiglia tunisina, dicendo lì che ci sono gli spacciatori. E questa cosa, sai, che ha creato una forte polemica, perché per esempio da parte del PD dicono ci ricorda certi totalitarismi, poi mentre Fabio Volo, lo scrittore, ha detto fa un po' praticamente il forte, l'eroe, il bullo, andando a citofonare lì, perché non va a citofonare ai camorristi, per esempio. E Salvini gli risponde: io mentre lui scriveva le canzonette eccetera ho confiscato i beni ai mafiosi. Insomma, tutto un botta e risposta. Non lo so, ma invece del citofono, ma perché non fare una regolare denuncia? Cioè, in fondo Salvini è stato anche ministro dell'interno, ha ribadito sempre la massima fiducia nelle forze dell'ordine, quello è il percorso. Io poi capisco il gesto provocatorio, ma lo ritengo comunque sbagliato dal punto di vista sostanziale, non solo formale. Se c'è un problema di ordine pubblico, uno fa una denuncia, non va a citofonare. Capisco il voler mettere sotto i riflettori un problema, ma non sta dando la soluzione. Invece ti chiedo, Lina, sogniamo o saremo desti prima o poi la Grecia, che ha eletto la prima donna presidente, la Grecia che a noi a volte ci sembra il fanalino di coda dell'Unione Europea, e loro ci hanno sorpassato in questa cosa. Tu sei ottimista o avremo mai speranza? Sul 2022, quindi sul nostro prossimo presidente della Repubblica. Mi sembra un po' troppo vicina, vero? Non è detto. Innanzitutto mi chiedo chi eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica. Uno degli obiettivi di questo governo dell'PD è proprio quello di riuscire a eleggere il nuovo capo dello Stato. Non so se ci riusciranno, anche perché io credo che invece il voto in Emilia per il PD sarà un test importante, se non per la tenuta del governo, sicuramente per la tenuta del PD e del suo segretario. Insomma, e aspettiamo, allora penso che sarà così un passaggio neutrale, chiaramente. Aspettiamo domenica, e chissà che anno dovremo aspettare per non continuare a essere sorpassati persino dalla Grecia, con tutto il rispetto e tutta la bellezza della Grecia, che a noi ci sembra solo quell'insieme di isole dove andare in vacanza, a parte tutte le cose dell'antica Grecia, ma insomma loro hanno eletto la prima presidente, noi chissà quando. Grazie Lina Palmerini. Delle candidature femminili sono, quindi non dobbiamo non disperare. Bene, no. Grazie Lina, mi aggancio al tuo ottimismo. Qui prendiamo una pausa di riflessione, come sempre continuate poi con i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Torno Ratta come la Fulgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, al momento giusto, con Roberta Giordano con voi, in modo che un giorno non potrete dire: io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Abbiamo scandagliato molto la politica italiana con i temi principali, soprattutto le dimissioni di Di Maio da capo del Movimento 5 Stelle. Adesso invece torniamo a parlare del virus che arriva dalla Cina, che continua a destare un certo timore a livello internazionale. Salgono intanto a 17 le vittime del nuovo coronavirus cinese. I morti si registrano nella provincia di Hubei, che è nella Cina centrale, e praticamente dove si trova la città focolaio di Wuhan, il cui sindaco invita i turisti a non andare in quella città. Anzi, poco fa la notizia è che praticamente è stata isolata la città, con i mezzi di trasporto che non vanno. OMS e Unione Europea preparano le contromisure, oggi riunione straordinaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però rinvia domani la decisione su se sia effettivamente un'emergenza di salute pubblica internazionale. Riunione d'emergenza anche delle autorità europee, allertati in Italia i medici di famiglia, in particolare di Milano e Roma, dove ci sono i maggiori aeroporti internazionali, pronta l'unità di crisi della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, e poi una riunione della task force operativa del Ministero della Salute. Subito allora coinvolgo Giovanni Rezza, virologo, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Bentornato professor Rezza. Buonasera. Allora, per fare un po' il punto, questa era un po' la sintesi, però mi sembra che il rischio di arrivo in Europa del coronavirus per il momento resti ancora moderato? Ma certo, non si può escludere che arrivi un passeggero in petto da Wuhan, anche se adesso vedremo quali saranno le misure che decideranno di intraprendere. Ma il punto è che la probabilità è comunque sia bassa che l'infezione in questo momento si diffonda anche in Europa. Naturalmente bisognerà vedere come evolverà la situazione in Cina. Speriamo che i provvedimenti che i cinesi stanno prendendo siano sufficienti. Professor Rezza, tra l'altro vedevo un caso sospetto negli Stati Uniti e poco fa ho visto anche un caso a San Pietroburgo in Russia. Se lei dovesse, a parte appunto sono stati allertati i medici italiani, quindi si tratta di una specie di polmonite, no professor Rezza, se dovessimo spiegare? Certamente. È una sorta di polmonite, una polmonite di fatto. Non sappiamo se ci sono casi anche più lievi, cioè senza polmonite, questa è una cosa ancora da definire. Credo che sia lo studio appunto della commissione che si sta riunendo a Ginevra, però di fatto le polmoniti più gravi sembrano soprattutto colpire persone che sono già diversamente vietate. Se lei dovesse consigliare alle persone, in genere, intanto non facciamo allarmismi, chiede anche un ascoltatore, mi raccomando, niente allarmismi, finora infatti abbiamo solo detto qual è la cronaca, infatti. E se, comunque, quali sono le migliori misure di prevenzione, professor Rezza, in generale? Noi in questo momento non dobbiamo fare nulla come singoli cittadini, perché in Italia fortunatamente questo virus non è arrivato, non c'è. E non sta circolando, non c'è, quindi non c'è nulla da fare. Naturalmente le autorità sanitarie stanno prendendo tutti i provvedimenti del caso, perché come sapete si sta facendo il termo screen, sostanzialmente lo screening della temperatura nei passeggeri in arrivo da Wuhan, che eventualmente, se dovesse capitare un passeggero con febbre, porterebbe a un rapido isolamento dello stesso. Dal punto di vista invece di chi proprio non possa prorogare un viaggio nella zona attualmente colpita, che è appunto la città di Wuhan, una città molto grande, 11 milioni di abitanti, allora certamente dovrebbero queste persone evitare luoghi particolarmente affollati, lavare molto spesso le mani, indossare mascherine che potrebbero ridurre in qualche misura il pericolo del contagio, però stiamo parlando di poche persone che dovessero andare lì. Chiaro. Per il momento, insomma, questa è la situazione. Vediamo domani anche cosa dirà, cosa decreterà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie intanto, professor Giovanni Rezza, dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie, grazie della disponibilità. Buona serata. Viabilità. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie importanti da approfondire. Roberta Giordano sempre con voi. Ci soffermiamo adesso su un intervento eccezionale avvenuto in Italia, a Pavia, per la prima volta al mondo. Un paziente di 73 anni affetto da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa, che era stato trasferito a Pavia da un ospedale milanese dove era stato ricoverato per aritmie ventricolari e ripetuti arresti cardiaci, è stato trattato con un fascio di protoni che ha colpito in modo mirato, con molta delicatezza, con un impatto bassissimo, la parte del cuore responsabile dei battiti cardiaci irregolari. L'operazione è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e è stata eseguita al CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, una delle 6 strutture al mondo dotate di acceleratori capaci di generare fasci di protoni e ioni carbonio. E per questo saluto immediatamente Viviana Vitolo, che è radioterapista, oncologa e fa parte dell'equipe che ha eseguito proprio questo intervento eccezionale al CNAO. Buonasera, dottoressa Vitolo. Buonasera a tutti. Intanto ci fa capire che cos'è un fascio di protoni, proprio per visualizzarli in modo semplice, il più semplice possibile. Un fascio di protoni è un fascio di particelle cariche, in particolare parliamo degli atomi, di degli atomi idrogeno. È praticamente una specie di radioterapia, però fatta in È modo... una forma di radioterapia. La radioterapia convenzionale impiega i raggi X, radiazioni elettromagnetiche, invece l'adroterapia che viene utilizzata a CNAO utilizza particelle cariche. Le particelle cariche sono, rispetto ai raggi X, più precise e in virtù della carica che hanno si arrestano nel bersaglio, senza dare dose alle strutture intorno. E, dottoressa Vitolo, voi finora l'avete utilizzato, lo utilizzate per i tumori che sono resistenti alla radioterapia o non sono comunque trattabili, operabili? In questo caso invece sul cuore avete agito? Esatto, diciamo che l'adroterapia è un trattamento di tipo oncologico, come la radioterapia in generale. Questa è un'applicazione innovativa in una patologia di natura non oncologica, sì. Ci sono degli studi recenti in cui la radioterapia convenzionale è stata impiegata come alternativa alle ablazioni per le aritmie come trattamento non invasivo. Noi abbiamo utilizzato i protoni invece. Quindi il paziente sta bene adesso, dottoressa Vitolo? Il paziente, i cardiologi che lo seguono ci dicono che il paziente sta bene, era ricoverato in terapia intensiva all'inizio, poi è stato portato in cardiologia e adesso è in una struttura riabilitativa e l'area aritmogena al momento si è spenta, quindi non ha più le aritmie che aveva in precedenza. Quindi, dottoressa Vitolo, si può dire che con questa terapia così rivoluzionaria che voi insieme ad altre 5 strutture al mondo utilizzate, di solito appunto per i tumori di cui parlavamo, può essere quindi rappresentare un precedente interessante anche per altre applicazioni come quelle che riguardano le patologie del cuore? Questa è stata un'applicazione che potrebbe avere un seguito, ma sicuramente nell'ambito di studi clinici. Quindi quello a cui abbiamo tenuto è stato intanto di aspettare un momento prima di dare la notizia ed emettere il comunicato stampa, proprio nell'interesse anche di altri pazienti, per non dare notizie che non fossero almeno in parte verificate nel tempo. Quindi è una possibilità sicuramente. Noi rimaniamo e rimarremo un centro che si occupa di oncologia, ma verificheremo definendo degli studi clinici l'eventuale applicazione anche in questo ambito, di cui sicuramente c'è un interesse. Grazie dottoressa Viviana Vitolo, ricordo, complimenti anche per questa operazione, ripeto, la prima volta al mondo che è stata effettuata appunto al CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con la collaborazione della Fondazione X Policlinico San Matteo. Grazie dottoressa Vitolo e buon lavoro e buona continuazione. Grazie, buona serata a tutti. Oh, a che punto sarà il nostro Dario Ricci all'Allianz Stadium di Torino nella partita di Coppa Italia maschile Juventus-Roma, caro Dario? Eccoci qua Roberta, siamo all'inizio della ripresa, al 49esimo per la precisione, Juventus in totale controllo, 3-0 per i bianconeri, ci eravamo lasciati dopo il vantaggio siglato da Ronaldo al 26esimo, al 32esimo Douglas Costa chiude un triangolo nel piano dell'area della Roma con Bentancur che vince un contrasto con Mancini e infila Paolo Lopez di giustezza per il 2-0, al 45esimo ancora Douglas Costa protagonista, su il cross a centro area che Bonucci con un incornata in fila alle spalle di Lopez per il 3-0. Inizio del secondo tempo scoppiettante, anche se il risultato si è sempre acquisito, perché la Roma ha colpito proprio al primo minuto un palo con Kalinic dopo la respinta di Buffon su tiro di Pellegrini. Un minuto dopo il cross di Ronaldo, il colpo di testa di Higuain, stavolta la traversa a dire no alla quaterna juventina. 49esimo di gioco in questo istante, Juventus 3 Roma 0 all'Allianz Stadium di Torino. Grazie dall'Allianz Stadium al nostro Dario Ricci in diretta da Torino. Qui tra poco ci lasciamo, vedo ancora molti vostri messaggi di natura politica, per esempio Marco da Torino che dice: da oggi Conte con le dimissioni di Di Maio e il re nudo, quanto durerà? In realtà Di Maio ha detto che non sempre hanno avuto idee diciamo combacianti, però che lo apprezza moltissimo, lo ringrazia, è orgoglioso di averlo scelto come Presidente del Consiglio e dice lui è la prova provata che effettivamente ogni cittadino, avendo le capacità, ha detto Di Maio, può assurgere anche a ruoli così importanti. Vedremo insomma che ne sarà, come dicevamo, del Movimento 5 Stelle nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ci saranno gli stati generali e anche del governo, ma intanto accontentiamoci di vedere cosa succederà domenica prossima con le importanti regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Avremo tempo di parlarne, adesso ci aggiorniamo brevemente poi alle 22.